roba che sto a trovare, va, che sto facendo manchette, come crepa a trovare, mia, per favore, alzatemi, roscio, drogato, anche domani alle 1:30, ti piombo di separante a casa tua, e capite, ne sveglio con la bagaglia non è tua, come fai, come crepa a trovare, roscio, faccio le due, quella grande, bagaglia di mamma tua, quella grande, bagaglia di mamma tua. Quella grande bagaglia mamma tua, coglione, Danilo Sanna, abitante via Bottego numero 3, capito? Che domani ti denuncio domani, capito? È finito di rompere coglioni, rompere coglioni a tua madre, vai, che tua madre è una grande bagaglia, tua madre è una grande bagaglia! A vedere se ne... che te ne sveglio pure tuo padre, quel bagassone. Non preoccupare che da domani ti piombo di telefonata, capito? Che domani ne sveglio quella bagassa mamma tua, perché domani intanto la attaccherai, certo? E domani ti romperò il coglione!